La speranza del cristiano. Già molti anni fa, con una convinzione che cresceva di giorno in giorno, ho scritto: spera tutto da Gesù, ma non hai nulla, tu non vali nulla, tu non puoi nulla, sarà Lui ad agire se ti abbandoni Lui. È passato il tempo e quella mia convinzione si è fatta ancora più robusta, più profonda. Ho visto in molte persone che la speranza in Dio accende meravigliosi falò d'amore, il cui fuoco conserva il cuore palpitante, senza sconforti, senza mancamenti, anche se lungo il cammino si soffre e a volte duramente. Mi sono commosso leggendo il testo dell'Epistola della Messa e penso che a voi sia successo lo stesso. Capivo che Dio ci aiutava, con le parole dell'Apostolo, a contemplare la trama divina delle tre virtù teologali che formano il canovaccio sul quale si tesse l'autentica esistenza dell'uomo cristiano e della donna cristiana. Ascoltate di nuovo San Paolo. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Qui, alla presenza di Dio che ci presiede dal tabernacolo, come fortifica la vicinanza reale di Gesù, mediteremo su questo dono soave di Dio, la speranza, che colma le nostre anime di allegria. Spe gaudentes, gioiosi, perché se siamo fedeli ci aspetta l'amore infinito. Non dimentichiamo mai che per tutti, e quindi per ciascuno di noi, ci sono solo due modi di stare sulla terra. O si vive vita divina, lottando per piacere a Dio, o si vive vita animale, più o meno umanamente illuminata, quando si prescinde da Lui. Non ho mai dato molto credito ai santoni che si vantano di non essere credenti. Li amo davvero, come amo tutti gli uomini, i miei fratelli. Ammiro la loro buona volontà, che in certe circostanze può essere eroica, ma li compiango, perché hanno l'enorme disgrazia di mancare nella luce e del calore di Dio, dell'ineffabile gioia della speranza teologale. Un cristiano sincero, coerente con la sua fede, agisce faccia a faccia con Dio, con visione soprannaturale. Lavora in questo modo che ama appassionatamente, impegnandosi nelle vicende della terra con lo sguardo al cielo. Ce lo dice San Paolo. Quesus sum querite, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti a quanto è mondano per mezzo del battesimo, e la vostra anima è ormai nascosta con Cristo di Dio. Speranze terrene e speranza cristiana. Con monotona insistenza si sente ripetere il ritornello piuttosto logoro che la speranza è l'ultima a morire, come se la speranza fosse un appiglio per andare avanti senza complicazioni, senza inquietudini di coscienza, o come se fosse un espediente per rimandare sine die la necessaria rettifica di condotta, la lotta per raggiungere mete nobili e soprattutto il fine supremo di unirci a Dio. Direi che questa è la via per confondere la speranza con la comodità. È segno che manca l'ansia di raggiungere il vero bene, sia quello spirituale, sia quello materiale legittimo. L'ambizione più alta si riduce ad evitare ciò che potrebbe modificare la tranquillità apparente di una mediocre esistenza. Quando l'anima è timida, rattrappita, pigra, la creatura si riempie di sottili egoismi e si accontenta che i giorni e gli anni trascorrano sine spe nec tenetu, senza le aspirazioni che esigono sforzo, senza i sussulti della lotta. Ciò che importa è evitare il rischio dei dispiaceri e delle lacrime. Quanto si è lontani dall'ottenere qualcosa se si è perso il desiderio di possederlo per amore del prezzo da pagare per la sua conquista. C'è poi l'atteggiamento superficiale di coloro che, ostentando magari una cultura e una scienza affettate, fanno poesia facile sulla speranza, incapaci di affrontare sinceramente se stessi e di dichiararsi per il bene, e riducono la speranza a un miraggio, a un ideale utopistico, alla semplice evasione di fronte alle angosce della vita difficile. La speranza, falsa speranza, diviene per costoro una frivola velleità che non serve a nulla. Su questa nostra terra, pur se abbondano i timorosi e i frivoli, molti uomini retti spinti da un ideale nobile, anche se privi di un motivo soprannaturale per mera filantropia, affrontano ogni specie di privazioni e si prodigano generosamente al servizio degli altri per aiutarli nelle loro sofferenze e nelle loro difficoltà. Mi sento sempre spinto a rispettare e anche ad ammirare la tenacia di chi lavora con decisione per un ideale limpido. Tuttavia considero il mio preciso dovere ricordare che tutto ciò che intraprendiamo qua giù, quando è un'impresa esclusivamente umana, nasce sotto il segno della caducità. Meditate le parole. Vorrei che anche a voi avvenisse come a me. La sicurezza di sentirmi, di sapermi, figlio di Dio, mi riempie di quella vera speranza che, infusa nelle creature come virtù soprannaturale, si adatta alla nostra natura ed è anche una virtù molto umana. Sono felice per la certezza del cielo che raggiungeremo se rimaniamo fedeli sino alla fine, per la felicità di cui saremo colmi, quoniam bonus, perché il mio Dio è buono e la sua misericordia è infinita. Tale convincimento mi aiuta a comprendere che solo ciò che porta il sigillo di Dio rivela il segno dell'indelebile dell'eternità e il suo valore imperituro. Perciò la speranza non mi separa dalle cose di questa terra, ma mi accosta a codeste realtà in modo nuovo, cristiano, portandomi a scoprire in ogni cosa la relazione della natura caduta con Dio Creatore e con Dio Redentore. In cosa sperare? Forse più di uno si chiede: noi cristiani, in che cosa dobbiamo sperare? Il mondo ci offre molti beni, appetibili dal nostro cuore, che reclama la felicità e insegue con l'ansia l'amore. Inoltre vogliamo seminare la pace e la gioia a mani piene. Non ci sentiamo soddisfatti di ottenere la prosperità personale e cerchiamo che siano contenti tutti coloro che ci stanno molto vicino. Disgraziatamente alcuni, con una prospettiva rispettabile ma piatta, con ideali del tutto caduchi e fugaci, dimenticano che gli aneliti del cristiano devono essere orientati verso traguardi più alti, infiniti. Ci intemessa l'amore stesso di Dio per goderlo pienamente, con un godimento senza fine. Abbiamo constatato in molti modi che la realtà di quaggiù passerà per tutti quando terminerà questo mondo e termina per ciascuno con la morte, perché nel sepolcro non ci accompagnano né le ricchezze né gli onori. Perciò, sull'ala della speranza che anima i nostri cuori ad elevarsi fino a Dio, abbiamo appreso a pregare dicendo: in te, Domine, speravi, non confundar in eternum. In te, o Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Spero in te perché tu mi diriga con le tue mani, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore non ci ha salvato per mandarci qua giù una città definitiva, perché questo mondo è la via dell'altro, alla dimora senza dolore. Senza dubbio, noi figli di Dio non dobbiamo disinteressarci delle attività terrene, nelle quali Dio ci colloca perché le santifichiamo, perché le impregniamo della nostra fede benedetta, l'unica che porta vera pace, autentica allegria alle anime e a tutti gli ambienti. Questa è stata la mia costante predicazione fin dal 1928. Urge cristianizzare la società, portare a tutti i livelli della nostra umanità il senso soprannaturale e poi impegnarci insieme a elevare all'ordine della grazia il dovere quotidiano, la propria professione, il proprio mestiere. Così tutte le occupazioni umane saranno illuminate da una speranza nuova che trascende il tempo e la caducità mondana. Mediante il battesimo siamo portatori della parola di Cristo che rasserena, che accende e acquieta le coscienze ferite. E perché il Signore opera in noi e per mezzo di noi, dobbiamo dirgli che siamo disposti a lottare ogni giorno, anche se ci vediamo deboli e netti, anche se percepiamo il peso immenso delle nostre miserie personali, della nostra indigenza debolezza. Dobbiamo ripetergli che confidiamo in Lui, nella Sua assistenza. Se è necessario, come bramo, contro ogni speranza. Lavoreremo così con rinnovato impegno e insegneremo agli uomini a reagire con serenità, liberi da odio, da sospetti, da ignoranze, da incomprensioni, da pessimismi, perché Dio può tutto. Lì dove siamo, il Signore ci esorta, vigilate. Di fronte a questa richiesta di Dio alimentiamo nelle nostre coscienze, traducendole in opera, desideri pieni di speranza e di santità. Figlio mio, dammi il tuo cuore, ci suggerisce all'orecchio. Smetti di costruire castelli in aria e decidi di aprire la tua anima a Dio, perché solo nel Signore troverai un fondamento reale per la tua speranza e per fare del bene agli altri. Quando non si lotta contro se stessi, quando non si respingono con vigore i nemici che si annidano nel nostro castello inferiore, orgoglio, invidia, concupiscenza della carne e degli occhi, spirito di autosufficienza, stolta avidità di libertinaggio. Quando non esiste la lotta interiore, i più nobili ideali inaridiscono come fiore d'erba. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la bellezza del suo aspetto svanisce. Allora, alla minima occasione, germoglieranno lo sconforto e la tristezza, come piante nocive e invadenti. Gesù non si accontenta di un'adesione titubante. Esige, e ne ha diritto, che noi camminiamo con decisione, senza tentennare davanti alle difficoltà. Chiede passi fermi, concreti. Infatti, ordinariamente, i propositi generici servono poco. Quei propositi, poco definiti, mi sembrano illusioni fallaci, con cui cerchiamo di mettere a tacere le chiamate divine che arrivano al cuore. Fuochi fatui che non bruciano né danno calore e che scompaiono con la stessa fugacità con cui sono sorti. Perciò mi persuaderò che le tue intenzioni di raggiungere la meta sono sincere se ti vedo camminare con decisione. Opera il bene, rivedendo il tuo atteggiamento abituale di fronte ai compiti di ogni momento. Pratica la giustizia, proprio degli ambienti che frequenti, anche se lo sforzo ti fa barcollare. Alimenta la felicità di coloro che ti circondano, servendoli con gioia. Dal tuo posto, nel lavoro che ti sforzerai di portare a termine con la maggiore perfezione possibile, con spirito di comprensione, col sorriso, col contegno cristiano. È tutto per Dio, pensando alla sua gloria, con lo sguardo in alto, anelando alla patria definitiva, perché questo è il solo fine che valga la pena. Tutto posso. Se non lotti, non dirmi che cerchi di identificarti sempre più con Cristo, di conoscerlo e di amarlo. Quando intraprendiamo il cammino regale di seguire Cristo, di comportarci come figli di Dio, non ci rimane occulto ciò che ci attende. La Santa Croce, che dobbiamo contemplare come il punto centrale sul quale appoggia la nostra speranza di unirci al Signore. Ti dico subito che questo programma non è un'impresa comoda, che vivere nel modo indicato dal Signore richiede sforzo. Vi leggo le parole dell'Apostolo quando enumera le sue peripezie e le sue sofferenze per compiere la volontà di Gesù. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città e pericoli nel deserto e pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatiche e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Mi piace in questi colloqui con il Signore rimanere aderente alla realtà nella quale ci troviamo senza inventare teorie né sognare grandi rinunce o eroismi che abitualmente non hanno luogo. L'importante è fare buon uso del tempo che ci sfugge dalle mani e che, per chi ha criterio cristiano, vale più dell'oro, perché rappresenta un anticipo della gloria che Dio ci concederà. Certamente nel corso della nostra giornata non ci imbatteremo in tante tali contrarietà come quelle della vita di San Paolo. Vi scopriremo invece la bassezza del nostro egoismo, le unghiate della sensualità, gli schiaffi di un orgoglio inutile e ridicolo e molte altre mancanze, tante, tante debolezze. Scoraggiarsi? No, con San Paolo ripetiamo al Signore: mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce offerte per Cristo, quando sono debole è allora che sono forte. A volte, quando ci capita il contrario di quello che desideriamo, ci viene spontaneo alle labbra: Signore, tutto crolla, tutto, tutto. E questo è il momento di rettificare. Con te avanzerò sicuro, perché tu sei la forza stessa. Quia tu es Deus, fortitudo mea. Tu sei il Dio della mia difesa. In mezzo alle tue preoccupazioni, ti ho chiesto di alzare gli occhi al cielo con perseveranza, perché la speranza ci spinge a stringere la mano forte che Dio ci tende senza posa, affinché non perdiamo il punto di mira soprannaturale. Ti ho chiesto di alzarli anche quando le passioni si ribellano e ci assalgono, chiudendoci nel cantuccio meschino del nostro io, o quando, con vanità puerile, ci sentiamo il centro dell'universo. Io vivo con la persuasione che se non guardo in alto, se non cerco Gesù, mai otterrò qualcosa. E so che la mia fortezza per vincermi e per vincere nasce dal ripetere quel grido che contiene la promessa sicura che Dio non abbandona i suoi figli, se i suoi figli non lo abbandonano. Tutto posso in colui che mi dà la forza. La miseria e il perdono. Il Signore si è avvicinato tanto alle creature che tutti conserviamo in cuore aneliti di altezza, ansia di salire in alto, di fare il bene. Se adesso ridesto in te tali aspirazioni, è perché voglio che ti convinca della sicurezza che Egli ha posto nella tua anima. Se lo lasci operare, servirai dal tuo posto come strumento utile, dall'efficacia inaspettata. E affinché tu non ti allontani per viltà dalla fiducia che Dio ripone in te, evita la presunzione di disprezzare ingenuamente le difficoltà che appariranno sul tuo cammino di cristiano. Non dobbiamo stupircene. Trasciniamo in noi stessi, conseguenza della nostra caduta, un principio di opposizione, di resistenza alla grazia. Sono le ferite del peccato originale, esacerbate dai nostri peccati personali. Pertanto dobbiamo intraprendere quelle ascensioni, quei compiti divini e umani di ogni giorno, che sempre sfociano nell'amore di Dio, con umiltà, con un cuore contrito, fiduciosi nell'assistenza divina e tuttavia dedicando ad essi le nostre migliori energie, come se tutto dipendesse da noi. Mentre lotti, una lotta che durerà fino alla morte, non escludere la possibilità che insorgano violenti i nemici di dentro e di fuori. Come se questo peso non bastasse, a volte faranno ressa nella tua mente gli errori commessi, forse abbondanti. Te lo dico in nome di Dio, non disperare. Se ciò avviene, non deve succedere necessariamente, né sarà cosa abituale. Trasforma la prova in un'occasione per unirti maggiormente al Signore, perché Lui che ti ha scelto come figlio non ti abbandonerà. Permette la prova per spingerti ad amare di più, a farti scoprire con maggiore chiarezza la sua continua protezione, il suo amore. Ti ripeto, fatti coraggio, perché Cristo che ci ha perdonato sulla croce continua a soffrire il suo perdono nel sacramento della penitenza. E per sempre, per giungere alla vittoria, abbiamo un avvocato presso il Padre. Gesù Cristo giusto, egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Avanti, qualunque cosa succeda. Ben protetto dal braccio del Signore, considera che Dio non perde battaglie. Se ti allontani da Lui, quale ne sia il motivo, reagisci con l'umiltà di chi vuole cominciare e ricominciare, di chi vuol fare da figlio prodigo tutti i giorni e anche molte volte nel corso delle 24 ore, di chi vuole risanare il suo cuore contrito nella confessione, vero miracolo dell'amore di Dio. In questo sacramento meraviglioso il Signore pulisce la tua anima e ti inonda di gioia e di forza per non venire meno nella lotta, per ritornare instancabilmente a Dio anche quando tutto ti sembra oscuro. Inoltre, la Madre di Dio, che è anche Madre nostra, ti protegge con la sua materna sollecitudine e ti guida nel suo avanzare. Dio non si stanca di perdonare. Dice la Sacra Scrittura che perfino il giusto cade 7 volte. Tutte le volte che ho letto queste parole, la mia anima è stata scossa da un forte sussurro di amore e di dolore. Ancora una volta il Signore ci viene incontro con il suo avvertimento divino per parlarci della sua misericordia, della sua tenerezza, della sua clemenza, che mai si esauriscono. Siatene sicuri, Dio non ama le nostre miserie, ma non le rifiuta e conta proprio su di esse per farci santi. Un sussulto d'amore, vi dicevo. Guardo la mia vita e sinceramente vedo che non sono nulla, non valgo nulla, non ho nulla e non posso nulla. Di più, che io sono il nulla, ma lui è tutto e allo stesso tempo è mio e io sono suo perché non mi respinge, perché si è donato per me. Avete mai contemplato un amore più grande? È un sussulto di dolore perché esamino la mia condotta e mi sgomento di fronte al cumulo delle mie negligenze. Mi basta ripercorrere le poche ore che ho trascorso in piedi in questo giorno per scoprire tante mancanze d'amore, di corrispondenza fedele. Mi addolora davvero il mio comportamento, ma non mi toglie la pace. Mi prostro davanti a Dio e gli espongo con chiarezza la mia situazione. Subito ricevo l'assicurazione della sua assistenza e sento in fondo al cuore che lui mi ripete lentamente: Meus es tu, tu mi appartieni. Sapevo e so come sei. Avanti. Non può essere diversamente. Se ci sforziamo di metterci di continuo alla presenza del Signore, aumenterà la nostra fiducia, constatando che il suo amore e il suo invito rimangono attuali. Dio non si stanca di amarci. La speranza ci dimostra che senza di lui non possiamo realizzare neanche il più piccolo dovere. Invece con lui, con la sua grazia, ci cicatrizzeranno le ferite, ci rivestiremo della sua fortezza per resistere agli attacchi del nemico e miglioreremo. In breve, la coscienza di essere come vasi d'argilla ci deve servire anzitutto per consolidare la nostra speranza in Gesù Cristo. Mettetevi con frequenza fra i personaggi del Nuovo Testamento. Assaporate le scene commoventi in cui il Maestro opera con gesti divini e umani, o riferisce con espressioni divine e umane la storia sublime del perdono, il suo amore ininterrotto per i suoi figli. Questa replica del Vangelo si rinnova anche ora, nella perenne attualità del Vangelo. Si avverte, si nota, si tocca con le mani la protezione divina ed è una difesa che cresce di vigore quando andiamo avanti nonostante gli inciampi, quando cominciamo e ricominciamo, perché tale è la vita interiore, quando la si vive con la speranza in Dio. Se manca lo slancio di superare gli ostacoli interni ed esterni, non otterremo il premio. Non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole. E non sarebbe autentico il combattimento se mancasse l'avversario con cui lottare. Pertanto, se non c'è avversario, non c'è corona, perché non ci può essere vincitore là dove non c'è vinto. Ruggire o scoraggiarci, le contrarietà devono essere uno stimolo per crescere come cristiani. In questa lotta ci santifichiamo e il nostro lavoro apostolico acquista maggiore efficacia. Meditando quei momenti in cui Gesù, nell'orto degli ulivi e più tardi nell'abbandono e nell'ignominia della croce, accetta e ama la volontà del Padre, mentre patisce il peso immane della passione, dobbiamo persuaderci che per imitare Cristo, per essere buoni discepoli suoi, occorre abbracciare il suo consiglio. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perciò mi piace credere a Gesù per me. Signore, non un giorno senza croce. Così, con la grazia divina, si rafforzerà il nostro carattere e serviremo di appoggio al nostro Dio, al di sopra delle nostre miserie personali. Cercate di capire, se piantando un chiodo nella parete non incontraste resistenza, che cosa potreste appendervi? Se non ci robustiamo con l'aiuto divino per mezzo del sacrificio, non potremo divenire strumenti del Signore. Se invece per amore di Dio ci decidiamo a trarre profitto con allegria delle contrarietà, non ci costerà fatica nelle situazioni difficili e sgradevoli, nelle occasioni dure e disagevoli, esclamare come gli apostoli Giacomo e Giovanni: possiamo. L'importanza della lotta. Devo mettervi in guardia da un tranello che Satana non disdegna di impiegare. Lui non va mai in ferie. Per strapparci la pace. In qualche momento può nascere un dubbio, una tentazione. Pensare con sgomento che si va all'indietro o che si avanza appena. Può anche prendere forza la convinzione che nonostante l'impegno per migliorare si peggiora. Vi assicuro che ordinariamente questo giudizio pessimistico riflette solo una falsa visione, un inganno che bisogna respingere. Succede in questi casi che l'anima è divenuta più attenta, la coscienza più fine, l'amore più esigente, oppure che l'azione della grazia illumina con più intensità e vengono agli occhi tanti dettagli che nella penombra erano passati inavvertiti. In ogni caso, dobbiamo esaminare attentamente quelle inquietudini, perché il Signore con la sua luce ci chiede più umiltà e più generosità. Ricordatevi che la provvidenza divina ci guida senza posa e non risparmia il suo aiuto, con miracoli portentosi e con miracoli spiccioli, per fare progredire i suoi figli. Non è una milizia la vita dell'uomo sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Nessuno sfugge a questo destino, neppure i pigri che non si danno per intesi. Disertano le file di Cristo e si affannano in altre lotte per soddisfare la loro comodità, la loro vanità, le loro ambizioni meschine. Diventano schiavi dei loro capricci. Se la situazione di lotta è connaturale alla creatura umana, sforziamoci di adempiere con i nostri obblighi con tenacia, pregando e lavorando con buona volontà, con rettitudine di intenzione, con lo sguardo rivolto a ciò che Dio ama. Così saranno colmate le nostre ansie d'amore e progrediremo nel cammino verso la santità, anche se al termine della giornata troviamo che c'è ancora molta strada da percorrere. Rinnovato ogni mattina con un serviam deciso, ti servirò, Signore, il proposito di non cedere, di non cadere nella pigrizia e nella noncuranza, di affrontare i doveri con più speranza, con più ottimismo, ben persuasi che se in qualche scaramuccia saremo vinti, potremo superare lo smacco con un atto di amore sincero. La virtù della speranza, che consiste nella sicurezza che Dio ci governa con la sua previdente onnipotenza e che ci dà i mezzi di cui abbiamo bisogno, ci dice la continua bontà del Signore verso gli uomini, verso di me, verso di te, sempre disposto ad ascoltarci perché Lui mai si stanca di ascoltare. Gli interessano le tue gioie, i tuoi successi, il tuo amore e anche le tue angustie, il tuo dolore, i tuoi insuccessi. Perciò non sperare in Lui solo quando ti imbatti nella tua debolezza. Rivolgiti al tuo Padre nel cielo, nelle circostanze favorevoli e nelle avverse, ricorrendo alla sua misericordiosa protezione. La certezza della nostra nullità personale non si richiede grande umiltà per riconoscere tale realtà. Non siamo altro che un mucchio di zeri. Si cambierà in fortezza irresistibile perché alla sinistra di tanti zeri ci sarà Cristo e ne risulterà una cifra immensa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Abituati a vedere Dio dietro ogni cosa, a sapere che Egli ci aspetta sempre, che ci contempla e ci chiede, esigendolo giustamente, di seguirlo con lealtà, senza abbandonare il luogo che in questo mondo ci è toccato. Dobbiamo camminare con affettuosa vigilanza, con la sincera preoccupazione di lottare per non perdere la divina compagnia. Questa lotta di chi sa di essere figlio di Dio non comporta tristi rinunce, tetre rassegnazioni o privazioni della gioia. Essa è il modo di reagire dell'innamorato che nel lavoro e nel riposo, nella gioia e nella sofferenza pensa alla persona amata, per lei affronta volentieri le difficoltà. Nel nostro caso, inoltre, poiché Dio, insisto, non perde battaglie, uniti a Lui saremo vincitori. So per esperienza che se mi adatto fedelmente ai Suoi desideri, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del Suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché Tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Nelle battaglie dell'anima la strategia a volte è sapere attendere, dovendosi applicare il rimedio conveniente con pazienza e con tenacia. Aumentate dunque gli atti di speranza. Vi ricordo che subirete delle sconfitte o che passerete per degli alti e bassi, Dio voglia che siano impercettibili, nella vostra vita interiore, perché nessuno è immune da queste vicissitudini. Ma il Signore, che è onnipotente e misericordioso, ci ha concesso i mezzi idonei per vincere. Basta che li impieghiamo, come dicevo, con la decisione di cominciare e ricominciare ogni momento, se fosse necessario. Accostatevi settimanalmente e ogni volta che ne abbiate bisogno, ma senza cadere negli scrupoli, al Santo Sacramento della Penitenza, il Sacramento del Divino Perdono. Rivestiti della grazia, attraverseremo le montagne, percorrendo l'ascesa del compimento del dovere cristiano senza attardarci. Impiegando queste risorse con buona volontà e chiedendo al Signore di concederci una speranza di giorno in giorno maggiore, possiederemo la contagiosa allegria di chi sa di essere figlio di Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ottimismo dunque. Mossi dalla forza della speranza, lotteremo per cancellare la macchia viscida lasciata dai seminatori dell'odio e riscopriremo il mondo da una prospettiva di gioia, perché esso è uscito bello e limpido dalle mani di Dio. Altrettanto bello e limpido potremo restituirlo a Lui se impariamo a pentirci. Con lo sguardo al cielo. Cresciamo nella speranza, perché così ci rafforzeremo nella fede, vero fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Cresciamo in tale virtù che supplica al Signore perché accresca in noi la sua carità, perché si confida davvero solo in ciò che si ama con tutte le forze e vale la pena di amare il Signore. Voi avete sperimentato con me che la persona innamorata si dona piena di sicurezza con una sintonia meravigliosa che porta i cuori a battere all'unisono. E che semmai sarà l'amore di Dio? Non sapete che Cristo è morto per ciascuno di noi? Sì, per il nostro povero, piccolo cuore. Gesù ha consumato il sacrificio redentore. Spesso il Signore ci parla del premio che ci ha guadagnato con la sua morte e la sua resurrezione. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Il cielo è la meta del nostro cammino terreno. Gesù ci ha preceduti e là, in compagnia della Vergine di San Giuseppe, che io tanto venero, degli angeli e dei santi, è in attesa del nostro arrivo. Non ci sono mai mancati gli eretici, anche nell'epoca apostolica, che hanno tentato di strappare la speranza ai cristiani. Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni fra noi che non esiste resurrezione dei morti? Se non esiste resurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. La divinità del nostro cammino, Gesù, cammino, verità e vita, è garanzia sicura che si concluderà nella felicità eterna a condizione di non allontanarci da Lui. Che cosa meravigliosa quando il Padre ci dirà: bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone, pieni di speranza. E questo è il prodigio dell'anima contemplativa. Viviamo di fede, di speranza e di amore. E la speranza è la nostra fortezza. Ricordate San Giovanni? Ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Dio ci incalza per la giovinezza eterna della Chiesa e dell'umanità intera. Potete trasformare in realtà divina tutto ciò che è umano, come il Remida trasformava in oro tutto ciò che toccava. Non dimenticatelo mai. Dopo la morte vi accoglierà l'amore, e nell'amore di Dio troverete tutti gli amori limpidi che avete avuto sulla terra. Il Signore ha disposto che trascorriamo la breve giornata della nostra esistenza lavorando e come il suo unigenito facendo il bene. Nel frattempo dobbiamo essere vigilanti, in ascolto di quelle chiamate che Sant'Ignazio di Antiochia sentiva nella sua anima mentre si avvicinava all'ora del martirio. Vieni dal Padre, vieni da tuo Padre che ti attende ansioso. Chiediamo alla Madonna, spes nostra, che ci accenda del santo desiderio di abitare tutti insieme nella casa del Padre. Nulla potrà preoccuparci se decidiamo di ancorare il cuore al desiderio della vera patria. Il Signore ci guiderà con la sua grazia e spingerà la barca con buon vento e così luminose sponde.